Ciao Luca. Avanti Romè. Ciao Romè, ci sentiamo più tardi, la prossima. Sì, ciao. Vado a mangiare. Non possono fare i discorsi che vogliono fare. bene, si può anche dire una stupidaggine, però ti garantisco che, come hai detto tu, è inutile stare lì a girarla, non sento altro che capo a capo rumori di voci di morti, porcherie varie che vengono dal nulla, non serve a niente aprire un discorso con gente così, perché nella festa credo che non abbiano niente, anzi credo che entrando un attimino in una testa così si proverebbe la sensazione del vuoto assoluto. Di questo ne sono convinto, quindi cosa ci vuoi parlare con questa gente qua? Niente, non ci fa niente, io giustamente ne sono deluso della radio, per cui la prendo così com'è e basta. Infatti, non so cosa dico, a volte sono lì che ascolto, seguo discorsi senza fine, ma non è stato silenzio, intanto a cosa serve inoltrarsi nel discorso quando poi non ha né capo né fine, si parla di tutto e di più, ma alla fine poi i risultati sono zero. Si è abituato a fare grandi discorsi, grandi cose, ma che ben vengano anche un po' di tecnologia avanzata sulla telecomunicazione, che venga un po' di politica fatta a modo nostro, nel senso che si parla un po' anche del governo sardo e non, ma invece non senti altro che il controllo e come sto scendendo e quanto ti arrivo e come ti arrivo e ti schiaccio e ti passo e ti crepo alla fine a cosa giri non si può dirigere. No, allora vabbè, la politica poi è una cosa che quello lasciamo perdere, un altro pulsante se ne potrebbe parlare, come hai detto tu, ma è noiosa e non ci dà nulla, perché i politici a noi la mangiare non ce ne danno, ce la tolgono. Per quanto riguarda quello del resto, per quanto riguarda invece la sperimentazione, la conoscenza in termini di elettronica, elettromeccanica e informatica è scarsissima. E le persone, moltissime persone, come appena toccano il PC sanno già tutto, ecco, non se ne parla più. Quell'altro come tocca un apparato già conosce cosa deve fare, addirittura è meglio smanettato che lasciarlo normale, figurati un pochino che testeato. E non potrebbero mai essere degli amatori, perché lì è a picchiare, quelli vogliono picchiarsi. Ecco, io la vedo così. Sinceramente Claudio, uno che vanno a mettere un apparato è un imbecille, e basta, che gli metta elicotteri o porcherie o stramodulatori o montezza e un somaro. Ecco, io questo lo dico a capo aperto. Poi se uno lo fa per provare, per vedere così, poi per creare un giro di commercio addirittura con persone prepotenti addosso a queste cose, eppure una sorta di maleducazione nei confronti dell'altro che modula nei cari vicino, ritorniamo sempre allo stesso punto, se parliamo di conoscenza in campo elettronico, elettromeccanico e informatico, ritorniamo lì, dove vedo che le persone se ne sbattono, eppure esiste internet, esistono tante fonti, altrimenti ci sono, anche lì ci sono fesserie, però se una persona si addentra un attimino riesce anche a selezionare quello che è buono e quello che non serve. Però dico, arrivato a un certo punto, come hai detto tu, e hai perfettamente ragione, è una noia, perché riuscire a intavolare un discorso, anche sui ricetrasmettitori, che perché si deve fare questo, nella radio si deve parlare di queste cose, ma non prova se mi senti o prova se arriva la modulazione o vedi un po' se l'eco è profondo, se c'è la palla, se c'è l'elicottero. Alla fine una persona dice, ma cosa c'è della radio? Poi spegni tutto e te ne vai, ecco dopo il discorso. Sì, qui siamo perfettamente d'accordo, vedo che la sintonia è quella, non c'è niente da fare. Ma non altra testa, che ci vuoi fare? No, infatti, il problema è sempre quello, che io a volte cerco un po' di assecondare la situazione per stare in compagnia, ma alla fine c'è poco da discutere, quindi che si parli di minestrone, che si parli di radio, l'importante è che si faccia un discorso. Invece è un periodo un po' molto scarso e quindi a me non è venuto di sicurezza. Io quando devo fare delle prove mi sposto, non impegno il canale 10 che ormai è il canale monitor qua di Sassari, mi sposto, faccio delle prove, delle cose, con chi me lo chiede e rispondo alle domande che mi fanno, ma sento i limiti della situazione. una monotonia allucinante. Non si fa altro che parlare sempre della stessa cosa, di chi dovrate, di chi dovrate, di chi dovrate. Ma cosa mi affrutta a me? Certo, anche il mio amplificatore io che possono distruggere come quando voglio, come sempre, ma siccome la corrente la pago io, la preferisco lasciarlo stare fermo dove è. Poi c'è sempre quello che ti stuzzica, quello che ti rompe le palle, quello che ti sovranugola, quello che mette la portante, allora sei costretto a accelerare un pochino per far sì che completi il tuo questo, ma alla fin fine non serve assolutamente a niente. Diventa un pollaio, diventa un pollaio di una sorta di così di macchia di comando napoletane, ecco, come lo vuoi chiamare, non lo so, un macino di ruspi, non si capisce niente, tutti lì a gracidare, a fare casino, non so, non riesco a capire questa moda, questa moda delle portanti, o questa moda di controlli continui, eccetera, eccetera. Io consiglio sempre che ci sono fondi. Ma che roba cos'ha allora? Ma cosa cazzo vuoi? Io purtroppo non ho mai avuto il piacere di avere un conterraneo o giù di lì nel nostro forum, perché scappano via, si comportano male, lì li buttano fuori. Lì li buttano fuori, non gli danno manco un secondo di tempo, esce fuori l'ingegnere, ti prende a calci nel sedere e ti butta fuori. Ecco cosa fanno, e fanno bene, perché qui possono mettere portante e farlo. Nel forum vengono direttamente dissociati, no? Dall'operatore addetto, fuori. Ecco che allora una persona non sa stare neanche in internet, perché come ben vedi Claudio, non è una questione solo di radio, ma l'educazione è anche in internet. Qualcuno che è entrato ci è uscito volando, perché poi cercando di fare prepotenza, assolutissimamente. E questa è la stessa cultura che hanno in radio, sono d'accordo perfettamente con te. Non ce la fai, di cosa ne vuoi parlare? Cosa ne vuoi parlare? Tanto l'esperienza è buonanotte, premo la portante, campa di campo, campa roggere, l'ecco, boh, va, tutto lì, chiuso il discorso. Poi l'altro campa ancora, poi spostati di canale, ma c'è uno strato, ma non si capisce niente, un po' l'aglio. Per quanto riguarda il canale 10, fortunatamente che esiste il canale 10, io sono contento che ci sia un canale dedicato, almeno Sassa lì, e un po' si sveglia la 27, altrimenti non ci sarebbe nulla. A te Claudio. Infatti questo è stato l'appoggio che ho dato inizialmente, perché erano un po' tutti sparsi nel 21, nel 5, nel 14, alla fin fine si è fatto un discorso un po' semplice e coordinato, e ho detto ma perché non rimaniamo su un canale quasi a centro banda, sul canale 10 va più che bene, facciamo sì che ci sia un canale unico dove la gente sa che esistiamo, che ci siamo, e che quindi passa ogni tanto a trovarci, a chiacchierare, a fare, perché quello sa che siamo qua, proprio pobre sa che siamo qua, e tutta quasi la provincia sa che siamo qua, quindi è bello chiacchierare e fare, ma ti ripeto, ribadisco Gianni che a volte preferisco rimanere di silenzio, ho già un paio di giorni, è tornato il portantista, disturba, fa, ti segue ovunque vai, ruta, capito? Quindi io non perché debba difendere la mia faccia dall'allenatore, non lo piace tutto, io sono nato CB e CB voglio rimanere con tutte le mie apparecchiature che ho in giro da tutte le parti, però mi soffermo moltissimo qua sul canale 10 perché sono gli amici di Sassari e mi fa piacere scambiare due chiacchiere, però ti ripeto, a volte ti ne passa due più la gana, te ne passa la voglia di poter stare in compagnia, di fare, perché c'è sempre qualcuno che o ha da dire o ha da rompere le palle, e allora niente, i tempi di Claudio Sparviero, come tu ben sai, sono passati. Siamo cresciuti, quindi non mi va a fare lotte con nessuno, l'importante è che, come sempre, il mio motto non mi pestino i piedi, perché se mi pestano qui, alla fin fine creo solo problemi e danno, quindi preferisco mantenere sempre la calma. Ok, già, faceva un collegamento con degli amici fuori in continente, c'era un po' di propagazione, si era andato un po' lo schizzo e quindi c'era un po' di propagazione. Se coincide ci sentiamo dopo, vai già. Grazie a voi, chiacchiere, ti lascio, vado a cena. Ok, buon proseguimento, buon appetito, buon tutto Claudio. No, mi fa piacere, ma figurati, no, sai cos'è che non riesco così quando non mi trovo, io credo che sia un ambiente, che ci sia già un discorso intavolato, che sia interessante per poter approfondire, avere e aiutare la mia cultura, perché a me piace, sai, no, c'è sempre da imparare, no? Ma inutile, no. Oramai si viaggia in altro modo, hanno distrutto quello che era veramente il fascino della radio e l'utilità della radio. Ma io come faccio a parlare a un camionista di non ridurre un colabrodo di suo 48? Non puoi dirglielo, perché tu hai da scornarti con un somaro e se sono sempre lì, è una guerra continua. Ma non hanno ancora capito che sono in radio, non hanno capito, loro pensano di essere in una chat line con l'antenna, capito? Gli scemi del villaggio con quattro ruote, Claudio, capisci? C'è molta gente qui che io vorrei sotterrare, sinceramente, sotterrare, capito? Gentaglia che fa solo casino per la frequenza, non te ne fai niente. Tutto lì, per quanto riguarda le altre parti, poi lasciamo stare. Va bene, ancora buon appetito, buon tutto, grazie ancora anche a te delle quattro chiacchiere. Ciao, ciao, a dopo magari. Ciao, viaggia, approfondiremo magari più tardi se poi ci vedrai, che mi hanno già chiamato. Ciao, buona serata anche a te. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Chi è? Avanti, ciao, ciao. Aspetta che prendo il computer e poi guarda. Guarda un po', mi sembra di sì. Fabri. Dimmi. Sera. Ciao Bombolo, no, a te io ti ascolto bene, devo essere un po' fuori frequenza Gianni. Papà. Sto bene. Sì, sto bene, mi tutto bene. Stavo provando questa 140 e solo che ogni volta che sento qualcuno prova a entrare, adesso mi stanno tenendo i bambini, che li devo mettere a letto, ogni volta entra qualcuno trovo qualche cosa, quindi mi spavento, dico, ma è questo o non è questo, siccome l'ho riallineato. E mi dice, cacchio, e invece adesso ti sento perfettamente, volevo vedere se Gianni era leggermente spostato col clarifer, probabilmente non era centrato. Ero spostato un po' col clarifer, guarda adesso, è 27.075 adesso la mia frequenza. Sì, perfetto, già, però quando trovo ti faccio il dottore, tanto mi puoi far spaventare così, eh. Mi sono dimenticato di arrivare la posta, perché questo funziona anche sulla M. Siccome era in banda laterale, stavo chiarificando e quindi probabilmente l'ho spostato e mi sono dimenticato di metterla a posta. Infatti ho detto, cazzo, mi sono spostato e ho detto, ma quello con il 140 riuscivo a ascoltarti magari più col filtro, però quando ho sentito adesso ho detto, mamma mia, le cose, ecco, l'ho controllato e è una cosa impressionante, quello è proprio centrato, una cosa impressionante, poi l'ho ricontrollato tutto, ho detto, ma così siccome ha scaldato si è spostato, nel senso che è acceso già un giorno e mezzo, tutto acceso, no? per l'estate, io ritengo accesi lì gli apparecchi, ho detto, quando scalda magari potrebbe essere che non è stabile, mi stavo già spaventando, e vabbè, no? allora niente, meglio così. Dai, riprendi già che se mi dici che la radio è buona, aspetta, faccio fare un passaggio a Bombolo e poi vado a mettere a letto i bambini. Bombolo, vuoi che senti tu il radio? Perfettamente bene, mi arrivi qua. Gamba, mi sento benissimo. Ok, dai, continuate. Io faccio bianco. Ti rilascio, c'è Gianni, io mi allontano un attimino che vado a mettere a letto il bambino che mi vuole, mi ha chiamato e voglio vedere cosa vuole. E lascia qua, io là Fabio, non ti preoccupare. Attenzione, ora, attenzione, Gianni. Fabio, attenzione. Sì. Antonio sono. No, ciao, è morto, non lo racconti. Sto guardando ancora il computer, adesso l'ho spento. Adesso mi diceva fammi la poltrona, con Giulia. Vabbè, tutto a posto. Tutto a posto, ci sto per far girare. Io sto per far girare questa radio, me la sto provando, aspetto mezzo 10 minuti, mezz'oretta, faccio una chiacchierata e poi me ne vado dentro per fare due cose al computer e via, e l'ho detto, e niente, avanti. Ma che apparecchio è? Un KV240. Sta abbastanza bene, ma molto bene come radio, eh. Ma non strappa né niente, è perfetto. Ma cos'è, c'era qualche difetto che aveva? No, questo dovrebbe essere più o meno con 440, no, questo mi è arrivato, no, scusi, lo spinotto, aspetta, scusi, è che vengo qua, no, questo è perfetto, infatti ce l'ho qua, non so nemmeno se lo do. Perché il più nuovo è nuovo, sembra, è difficile, sembra uscendo dalla fabbrica, è difficile trovarlo così, era perfetto, poi elettricamente l'ho controllato, era perfetto, aveva un piccolo problemino che ho risolto, no? Io molte volte mi li propongono con dei contatti che ho preso anche qualcosa in Germania, vabbè, questo è arrivato dall'Italia, che hanno dei problemini e li prendo, e questo qua aveva se si può chiamare problema, infatti quando l'ho messo sotto per riallinearlo praticamente non c'è stato bisogno, trovando il controllo, i parametri erano tutti precisi, quindi non ho toccato quasi niente, ho solamente fatto la taratura degli emitter e basta, alla fine c'è stato bisogno, giusto per pignoleria, praticamente l'acqua. sono due cinti, cioè l'hai acquistato un poco presto, così, e tu l'hai aggiustato. Sì, sì, due cinti, due cinti, no, ma sono capolitiche, quando, e quindi, due cinti proprio, se tu consideri che è solo per una frattura, un allineamento, ti prendono 150 euro, credo c'è alla fine. Quando uno inizia a fare un piccolo problema, dice lo devo mandare su, spendo 40 euro tra andare e tornare, e magari mi prendo 50 euro di cose, tra la tura, alla fine mi costa, se tu come va bene, anche se non ha niente, l'apparecchio mi costa 200 euro, e a quel punto molta gente se ne disfa, capito? E questo, e poi quando, e quindi magari se c'è il contatto riesci a beccarlo tu. Continente, qua l'Italia oppure? No, questo in Italia, mi hanno mandato questo e ho detto, mi hanno mandato anche un qualche ero, ho detto, guarda, che è un sacco di c'è veloce, e adesso mi dovrebbe arrivare, però questo a posto mi hanno garantito, dovevo arrivare un Galaxy Saturn. Ma Saturn, ecco. Perché stai prendendo un Galaxy? No, lo sto prendendo, lo darò via lo stesso. Mi hanno proposto a un buon prezzo, quello lì con l'altra merce, me lo metto qui, lo pulisco, lo controllo, dopo mi tolgo la schema tecnica, gli faccio due allineamenti se sono da fare. Gli modifico il modulatore per farlo spingere di più, un piccolo lo elaboriamo leggermente perché ci vuole poco tanto per elaborarlo di radio e poi lo farò fuori sicuramente. Calma, andavano bene con la radio. A me la verità non mi piace il modello, non mi piace come apparecchio, però funziona molto bene. La verità non mi piace come è fatto, l'estetica, c'ha di apparato troppo, perché per i gusti miei, non è che voglio criticare niente, però per i gusti miei poi tanto c'ha l'apparato antico. No, a me piace, così è frequentimetro, ma stiamo dicendo lo stesso apparecchio, quello nero, come quello che c'ha Gianni doppio room. Non so come è fatto un Galaxy, lo so. No, però che come funzionalità va molto bene, la verità. Come funzionalità non gli posso dire niente. Però, boom, cioè, io sono amante di solari, non mi piacciono di fare, non mi piacciono molto gli apparati da base. Perché ce l'ho avuto, ma l'ho usato, ecco, però non mi affida come, per esempio se tu mi dai uno di questi piccolari così normali, lo preferisco di più di una stazione base, è questione di gusti. Invece a me piacciono più la radio base, i piccolari non mi piacciono molto, la verità ci dica. Sono molto le radio da base che quelle da tante. Per il fascista è un po' che sta contagiato tanto. È questa questione di gusti, insomma, mi piacciono soprattutto, mi piacciono le radio moderne, quelle che hanno, cioè, quelle un pochettino che hanno canali, hanno, funzionano bene, cioè, hai capito? Non mi piacciono, però piccolari, quelli di stazione base non è che mi piacciono molto. Sì, ce l'ho avuto io, però poi non, hai capito? Sono di questi bus, chi è entrato? Antonio. Eccolo. Buonasera, ben sentiti. No, dicevo, l'esclamazione la verità si dica è classica di Pomponio. Sono io, sei tu che ti facendo male? Io. Cosa ci ho sento bene. Vabbè, come lo senti tu? Un po' troppo compresso mi sembra. È compreso, però può essere lui, può essere la sua tonalità, per carità. Può essere un po' cupo più che compresso. Beh, aspetta che cambio microfono, Oh, c'hai. Mille. Gamma. Dipende, ognuno c'è la sua tonalità. Io ne ho una e tu ne hai un'altra. Io in genere tutte le radio che ho comprato mi sono sempre andate bene. No, stavo un po' strappando, mi ha dato un'impressione. Ah, sì? Perché se rientra, vediamo. Stanno, dai. Mi chiamano a me, Fabio. Ciao, Claudia. No, senti che in Brode è entrato e mi ha dato l'impressione... No, ma lui mi sento bene, insomma, se... che quando sento qualcuno che poco fa mi sono spaventato con Gianni perché lo sentivo male, mi ha detto cazzo che cosa sta succedendo e invece era lui un po' spostato col clarifero, adesso ho sentito un Rode che lo stesso mi dà l'impressione che stava strappando, non so se lo state ascoltando. Adesso la lo dico io che cos'è, non toccare niente, guarda giù in fondo c'hai NB1 e NB2. NB1 lo inserisci e l'NB3 la leva, la metti al centro, dovrebbe che non satura più nessuno. Ok, questo lo fa. Allora, tu mi dici mettere al centro, NB1 lo inserisco e NB2 non lo inserisco, così? No, NB2 non serve a niente, NB1 inserito e NB3 al centro, metti, dovrebbe che non sta a posto. Ok, sì, infatti oggi mi sono spaventato, ho detto, e invece non voglio imparare. No, ma ci aspetta che è entrato il Grode, forse aveva problemi al microfono veramente. Avanti, Grode. Ola, 1-2-3, 1-2-3, prova. Buonasera, Claudio. Buonasera, come lo senti adesso? Allora, vieni avanti, vieni avanti, a te ti sento perfetto, a Bombo lo sento perfetto, a Grode non lo sento perfettissimo, fai un passaggio lungo, voglio fare una prova. Aspetta, guarda un attimino come mi ascolti, 1-2-3, 1-2-3, prova microfono, prova di modulazione. Allora, non sei centrato, ma già l'ho fatto facendo altre prove con questo, sarà che l'ho appena cacchio allineato, io se leggermente spostato sarà che una caifa, lo so, però con questo mi crea problemi, non sei perfettamente centrato, fai un passaggio lungo e tira, e te lo controllo anche Claudio, confermi? No, Fabio. Lo sento perfettamente di sonda, controlla bene l'NB-Leber se non l'hai spostato troppo, se no per fare la prova metti la leva tutta a destra, lo driver tutta a destra e disinserisci l'NB-1, guarda come lo senti. E avanti Grode. 1-2-3, aspetta che mi hanno girato. 1-2-3, 1-2-3, prova. Ola. Guarda un po' come mi ascolti, 1-2-3, 1-2-3, prova microfono. Allora, io a Claudio ce l'ho perfettamente centrato, a Bombo lo stesso, a te che non ti ho perfettamente centrato. Adesso guarda, però io non ho fatto una cosa, per esempio se non sei perfettamente centrato con altri apparecchi, questo mi sembra un po' più selettivo. Però Claudio puoi fare una cosa, perché per esempio con l'850 col 450 ho notato questo, che se uno non è perfettamente centrato comunque non mi crea molti problemi, non so se buffo e se col VF o giro tende ad aumentare il segnale. Fai questa prova qua, mettiti con mentre il Grode parla, prova a girare il VFO e guarda un attimino se ti aumenta leggermente il segnale. Ola, 1-2-3, 1-2-3, prova microfono, sono su I27075 in ampiezza modulata, anche se non è giusto il termine, avanti. È giusto, sì. No, il mio è perfetto, lo so. inserito con la guardia della metà, come tengo sempre per i rumori della motocarrozzella, eccetera. Vabbè, è il mio rapporto, provate anche con l'850, è perfetto Antonino. È perfetto, quindi hai bisogno di un altro allineamento, non lo so, guarda uno sguardo. Di solito l'NB che fa questi giochetti così, praticamente il filtro noce, quindi il cosiddetto noise blanker. Vedi un po'. Allora. Hola, 1, 2, 3, prova. Che mara che sto usando, brode? Che mara che sto usando, brode? Guarda, adesso anche attaccato, guarda se mi vedi meno saturo e più centrato, sono un MB45 Mobicom della Intec. Adesso mi sono spostato, tu come mi senti, grande? Io ti sento perfetto. E tu come mi senti, Cla? Spostato. Vedi, no, io adesso non sono convinto, anche perché ho attaccato le sue frequenze, però la frequenza è perfettamente centrata, meglio del 440. Ti sento così, però se io attacco per il 440, questo è più, se no, adesso mi sento tutti bene, grande, tutti perfettamente spaccati come perfetti, a te ti sento un po' fuori, ho capito, devo girare per centrarti leggermente. Prova un attimino, scusa, mettiti prima sui rimani che ti conosci adesso e dopodiché sposto qui sui 27.075. Ciao. Dimmi bombolo. Adesso io attacco un'altra radio, quello questo mi senti sempre bene. Dammi 2 minuti. Sì, attacca. Vedi, anche a bombolo, quando parla, basta che mi sposto, faccio 75.3, ma scendo di 3 e già inizio a perderlo. Quindi io sono perfettamente centrato. Allora, nel decimale c'è il 00 o 1-0 solo? 1-0 solo, c'è qua. Ok, spegni la radio, tieni premuto crea, riaccendi la radio e ti appare l'altro decimale. Allora, clear, tendi il su clear, sto cercando qua, dimmi dove. Come? La barra dove c'è la barra celeste, spegni la radio, tiri tutto quello e riaccendila. Ah, ok. Come? Vuole vedere se mi senti bene anche con questa radio? E dei 2 decimali. Adesso lavora con i 2 decimali che ti viene meglio per la televisione, perché un decimale ti viene male. Allora, riavvio avanti un po'. Vuole vedere con questa radio. Ciao Fra. Perfettamente centrato, perfettamente, perfetto, tutti perfetti siete. L'unico è Grobe. Io ho già notato questo maledizio, anche con se poco furi, infatti poco c'era il poco fa Gianni, che era leggermente un furi col che rimanda la telare, mi ha detto. E sono già sui furi, gli altri ascoltavano bene, però ho attaccato il 440, io lo sentivo bene con 440. Allora problemi, lo direi già, controlla più il clarifer, no, ero fuori, si è messo centrato, infatti sento tutti bene, l'unico sei tu, se ne voglia ti avvicini a casa e ti attacchiamo il frequentimetro e ti faccio vedere che sei fuori, vabbè. Ah, ma è a riallinearlo quanto ci vuole a livello di tempo? 5 minuti, il pacchetto di rilevisti, se troviamo lo schema, se no comunque guarda, la per riallinearlo è sempre quello, è il primo in genere, un po' colorato vicino al, non c'è bisogno, su 199 io ho sempre trovato il primerino colorato particolare vicino al quarto, quindi ci vuole poco. Tappa di Roger, qual è quello che sembra imbottito, che c'ha il trimmer che lateralmente è viola? Sì, potrebbe essere quello viola, sì, viola, rosso, verde. Allora è possibile che un attimino sia spostato, eh? È possibile. No, sicuro, si è spostato, guarda, io mentre tu stavi parlando mi ho attaccato il frequentimetro alla radio, ho controllato, cioè, sto dicendo, ed è perfettamente centrato, quindi non, ma poi tutti io sento perfettamente, sei l'unico che ti sento un po' spostato, però ti ripeto, secondo la radio che usi non dai fastidio, anche HF, perché con 440 problemi non ne stavi creando. Niente di particolare, non ho toccato niente, però se mi dice così è possibile che sia quello, perché tu stesso, non so se ricordi, che un po' di tempo fa mi dicevi che con questa scarpetta stavo creando delle spurie strane, ed è possibile che sia dato al fatto che non sono centrato in frequenza. Buonasera a tutti, doppio room. Ciao Gianni, ben sentito, ciao Caio, se sta facendo corretti o corretti, se tutto quanto rimani, che siamo tra amici. Allora guarda, io mi sono spostato, 27.076 sono invece di 75, e a te ti ascolto bene, e probabilmente tu mi ascolti bene e chiunque mi ascolta bene, perché è talmente poca la differenza che in AM è talmente grande l'ampiezza che non ci dovrebbero essere problemi, però adesso fino avanti dimmi come mi ascolti. Ma guarda che io lamento il fatto che comunque più di una volta mi hai sentito dire che la colonnina sembra che masticci la voce in ricezione, ed è possibile che sia per quello, capito? Guarda un po' adesso, per esempio, come mi stai ascoltando, bene? Sì, prova a farmi sentire le differenze, se no non riesco a... Allora, guarda, così è il primo passaggio e così è il secondo passaggio, mi sono spostato. Ma 0,75, adesso poco fa ero 0,76. Ascoltavo meglio prima. Vedi, adesso sono 0,75, 0,76. Io, guarda, adesso invece lo faccio a Gianni. Gianni, adesso sono 0,75, alta bombo, 0,76 sono. Sono 0,76 e adesso sono 0,75. Quando mi ascoltavi meglio già? 0,75. Vedi. Ecco, questo quando l'ho messo a puntino, stato una volta che a puntino ti rendi conto anche delle stronzate, sono le linee, gli affidenti, lo so. È così, quindi se tu sei, cioè, sei spostato di poco, di terreno si è spostato proprio, lo porti un attimino, adesso domani mattina, davanti domani pomeriggio se vuoi passare. Sono riuscito a memorizzarlo? Sì, perfetto, grazie Clara, buono del consiglio, due consigli, buoni mi hai dato, memorizzare che ho quasi toccato che cosa strana qua, è quello del doppio decimale. Da conoscerli, no, è il primo che mi è, cioè, mi è entrato più duro, ma è il primo questo che sto usando di 140, quindi. Ma il decimale non può essere impostato davvero, così non sparisce più, quindi tenlo così. Va bene, lo proseguo a tutti, ci sentiamo. Avanti, Antonio, riprendi e sei girato, ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo nei prossimi, eh. Avanti, Antonio, non so se la palla fosse stata aperta, vai. Bombolo. Ciao Clavet, ci sentiamo. Avanti Gianni. Ciao Claudio, buonanotte. Ciao ragazzi, che comunque deve essere una cosa impercettibile, perché tu da 0,75 a 0,76 c'è il cambiamento, Fabri. Però è una cosa impercettibile, non credere che sia una cosa molto forte. No, è molto poco, però allora, quando sei baracchini non te ne rendi conto. Però quando usi un apparecchio un po' più te ne rendi conto, soprattutto quando è perfettamente allineato, perché allora è più stretto di banda, capite tutto più, invece quando ci smanetti un po', allarghi la banda, tu non proprio in AM, cioè la allarghi, la fai, te ne fai tutti i colori, giri, quindi alla fine è come quando metti i filtri in una caica che stai stringendo la banda, se tu apri, anche se ti sposti leggermente, non è che ti rendi molto conto, invece più stringi e più, se diciamo, chiudi più ti rendi conto degli spostamenti di frequenza, no? E con l'HF ovviamente chiudi, è più selettivo per quello che lo senti, purtroppo ho fatto tutti i controlli interallineati, quindi te ne rendi subito conto. E il grod adesso io sto riuscendo a capire perché, vedi, con 140, con 440 non me lo faceva, mi sembra, no, poco di meno, perché è molto più aperto come radio, più chiamala, come dire, scacciavitata, è più aperta per uscire in AM, quindi la banda è più larga, è per quello, però sei fuori leggermente, ed è per questo adesso riesco a capire, perché molte volte ti dicevo, non ti sento, però sta uscendo male, sta uscendo questo, sta uscendo l'altro, ed era solamente un problema di centratura. Dimmi una cosa, quando mi centri sale anche il segnale oppure il segnale rimane comunque invariato? Si mette a sale anche il segnale, vieni avanti, dai, che dice, lo fai in conto sino a 10-15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Cambio. Sale anche leggermente di segnale. Questo sono 27.076, si va anche leggermente di segnale, poi è così, adesso sicuramente mi senti meglio anche tu. Esatto, vabbè, ma c'è la tele radio un po' troppo spinta, capito, per notare la differenza, però a prescindere da quello sì, evidentemente qualche problema c'è, ma lì come ti sta arrivando, sempre 9.50 o 9.40? Adesso mi sta arrivando 9.30 qua. Adesso perché di solito come ti arrivavo? Allora non lo so, insomma lei che ti ho guardato, io non lo ricordo, ma lo sai che non sono attento a queste cose. Però su questa sono sicuro perché ho fatto le prove, ho attratto lo slitter ieri, oggi gliel'ho ripreso in mano per sicurezza, perché lo lasci 24 ore, tipo la salsiccia, lo lasci un po' lavorare, poi io ricontrollo, ho ricontrollato più o meno tutto il tappo, solo ho ricontrollato, ma era un puntino. E adesso c'ho questo smitter che nemmeno infatti in 440 adesso ce l'ho lì e lo voglio riallineare tutto completamente, però prima di riallinearlo tutto completamente, visto che c'ho questo che va bene, lo posso fermare anche qualche giorno, anche di più, con calma, e gli ricostruisco i VCO, che già lo sai che soffrono i 440, no? C'ha la collo, visto che secca, e diventa induttivo, che ho detto ha problemi. Infatti 4.40 bisogna fare comunque quei VCO o gli oscillatori, praticamente bisogna smontarli, togliere la colla, se si rompe qualche diodo cambiare i diodi, i transistori in genere non hanno problemi, pulire tutto, rimontare e ricararlo e riallinearlo, e lui torna come il primo giorno e non dà più problemi. E lo voglio fare, capito? Perché mi sto rendendo conto della differenza, per esempio adesso quello che ho trovato adesso, di questo che è tutto perfettamente allineato, e dell'altro che va benissimo in quadrata, però questo lo sento più, cioè questa percezione per esempio con l'altro non me l'ero reso conto. Papà di Rogero, Cavagava e Cavarogi, ascolta, non ti è arrivata nessuna comunicazione? No, ancora no. Ancora no, non mi è arrivata nessuna comunicazione. Ah, c'è un problema anche al microfono, aspetta un attimo, riprendi già. E tu già non ti rendi conto di che è leggermente spostato? No, negativo, devo dire la verità, io lo sento bene. Ma tra baracchino e baracchino non te ne rendi conto, Fabri. Te ne rendi conto con degli apparecchi più professionali che, appunto, come hai detto tu, sono più selettivi. Sì, mi faccio loro adesso i frequenti. No, quello sì, anche perché... sì, ma adesso prendi il tornado, il 34S è quello che mi ha portato Massimiliano, ricordi che sembrava che andava bene, minchia, non entrava lui, era tutto fuori, e quello era fuori frequenza, l'avevano toppato, capito? E durante un attimino, l'ho messo in frequenza e anche quello è andato al 100%. E stare attenti a cosa tocchi quando lo apri, perché una volta basta poco, ma anche sfiorarlo. io già non lo apro nemmeno, perché così non c'è il rischio che trovi qualcosa. Sento, ho visto su internet il tuo apparecchio, ma deve arrivare uno uguale identico al tuo in questi giorni. Ho visto un pazzo furioso, ma grazie alle modifiche gli ha fatto, gli ha messo il frequenzimetro digitale, gli ha messo il doppio modulatore, gli ha messo, ha fatto la modifica al drive, ha modificato il woofer, gli ha fatto poco perché è poco stabile, ha messo un uno stabilizzatore termico sul quarzo, perché quella radio pare che soffre un po' di instabilità, allora uno stabilizzatore termico sul quarzo, ma è stato le cose che ha fatto, c'è la scheda qui, la scheda, ha fatto davanti di quelle cose, è un pazzo furioso, non è che non ha tirato fuori uno schiatto. Io quando arrivo gli faccio solamente, poi lo do via, comunque l'ho preso per darlo, per quanto sia lo voglio controllare, gli faccio l'allineo, se l'allineare, e poi gli do il controllo di modifiche che possono fare, il allargare la banda per farlo uscire meglio in AM, fare un doppio modulatore, ci sono i componenti, però non so se ne vale la pena, perché se metti l'amplificato non ce n'è bisogno, però magari lo metto dietro con un interruttorino, lo inserisci e lo disinserisci il doppio modulatore, capito? Ah. Se non sbaglio quella ETP3600 dalla scheda, un po' come le schede di tutti quei baracchini lì, e sono tutte uguali poi alla fine di quella serie. E Pluto, più quello di sono più precisi, comunque una cosa di buono c'ha questo apparecchio, che trovi tutti i pezzi. Sì, la radio si trova tutto. Poi ho visto anche un'altra modifica, un transistor che costa 2 lire, per aumentare, per farlo più silenzioso come apparecchio, aumentare anche un Santiago di ricezione, lo aumenta la ricezione e lo rende più silenzioso. Ma è abbastanza silenzioso come apparecchio, abbastanza assordo. Infatti fanno questa modifica, ho visto, ma se guardi su cosa, mica le modifiche che ci sono su quell'apparecchio, forse non ho venduto molti, non lo so, stavo leggendo molto, però secondo me più di tanto non conviene, perché qua come deve fare una file, un CB, va bene così, con quello bisogna fare una modifica sul, te lo faccio sentire quando mi arriva, prima normale, poi lo modifico e te lo faccio risentire, per vedere se c'è cambiamento, dice che la modulazione dovrebbe aprirsi in maniera incredibile, voglio provare. Ma magari, ciucucciù. Avanti, ciucucciù. Mi sentiamo tutto. Bisogna sempre giocare, bisogna migliorare, più che giocare bisogna migliorare, con poca spesa si può migliorare. Si può fare tutto. E a Pinocchio l'avevo fatto Roberto rapido, no? Con doppio modulatore, camera ecco, sembrava uno di quelli che sono i camionisti quando entravo. Sì, ma se non sbaglio c'era già la camera ecco il tuo, no? Sì, ce l'ha, ma se non ho messo la camera ecco col l'effetto elicottero. Sì, non è barato, guarda, si può fare visto qualcuno della modifica, però se non sbaglio con la scheda, volendo, ci si può lavorare su un pochettino. No. Tu comunque stai sempre usando quello lì col box, o no? Sì, io. Vabbè, quando arriva, lo provo e poi vediamo in che condizioni è. Cioè io mi faccio, quando arrivo lo controllo tutto, sperando di avere la fortuna di questo qua, come questo qua, non lo so. Avanti, gode. Cazzo, non zingaro, cazzo, cioè se ne vai non dici un attimo di bianco. Urla, sempre così. Ma io già l'ho capito cosa fa. Hai pittina, pronto, e pure le devi dire. Oh, non te lo puoi dire. Ma pronto dice qualcosa, quindi non devi dire niente, testa sua. Ciao, Pompo. Pronto. Tutto bene, Tutto bene, sono uscito di capo e cavalletti, comunque già sto bene, per il primo momento. mi devi incazzare adesso, capo, per prendermi i bevuti mi devo venire a carreggiare. Lavora, che non fa male lavorare. Chiappa. Ma picchi negativi ciò. Che stava però? Stasera alle 5 RM sono diminuiti tutti i segnali, Fabri. 5 RM 9 sono sempre radio 1, però sentivo come si deve a Antonio. Strana la cosa, ok? Chiappa. Ma picchi negativi ciò. Oh, Fabri. Non lo so, ma ti sento la verità molto più bassa di una volta. Di 2 giorni fa la verità. Anche Fabri ha lo stesso problema oggi, uguale come ce l'ho io. Sento tutti bassi, no? No, ascoltati, che problemi c'hai io, Ciccio? Mi sento Antonio che è basso, l'altro giorno ieri lo sentivo bene, oggi lo sento basso, un po' strano di segnare, anche di radio addirittura. Cioè qua aveva 9. E non è una giornata strana oggi la verità. Io sentivo benissimo. Oggi ho questi problemi. Addirittura non sentivo neanche a cosa, ma usiamo un sorso. Sì, Antonio. Prova a cambiare apparecchio, non è che ha problemi con l'apparecchio, perché aspetta, io mi sembra lo stesso QRM adesso quasi zero, Non c'è lo strumento. No, anche col termine 9 non lo sento quasi, mi trovo dicendo. Lo sentivo più forte col termine 9, eppure oggi voi strano la cosa. E quando non arrivo io a casa tua? Tanto non so cosa niente, ti sento un bel basso, la verità. Di solito col termine 9 sentivo Santiago 3 per dire. E ti capivo benissimo, oggi non so se l'ha presa questa antenna, anzi tutti e due al limite, non una sola. La verità, come mi senti? La verità si dica. Anzi ti sento basso. E allora piglia il baracchino e buttalo dalla finestra. Ma perché non rispondi quando ti chiamano fino a poco fa? Usci a posto, ti chiamano non rispondi. Piglia il basso mio, va bene. Ho detto che avevo problemi al microfono, li ho risolti, adesso rientrano. Oh, Antonio. Dimmi. Come mi senti tu a casa tua, bene? La così radio 4. Sto radio 4, offendendo questa. Ti sto offendendo perché c'è un po' di QRM, te lo tiri dietro, ma perché sei un po' basso di radio, capito? Fabri, come mi senti? Bene, qui radio 5, Santiago 9, 10, va bene, picchi positivi, poi va bene, no, Santiago 2 c'ho io di QRM, oggi vado molto di più perché poi mi sono reso conto che vanno per lo smettere così, ho riparto lo smettere, va bene, poi questo mi piace, cioè, questo qua ho fatto lo smettere con... con il giocatore, no? Dandogli lo 0, il Santiago 1, Santiago 9 e poi finito la prova del Santiago 1 ed è perfetto, veramente perfetto, quindi non me lo 440 così perfetto lo smitter. Cioè, ma come fai a sentire, a registrare un Santiago di 9-10 con Mommolo? Cioè io ce l'ho a 6-7 e tu ce l'hai a 9-10. No, sto scattando, 9-10, si attacco l'altro uguale, ti ha fatto le prove, stavo facendo le prove e mi rendo conto che questo è più... infatti lì qui in 440 adesso che gli farò un lavoro, per un ruolino devo controllare bene lo 0 dello smitter, dell'apparato 0 e il Santiago 1, perché infatti se no poi non sono perfettamente, magari si... i segnali alti sono giusti e quelli bassi no, viceversa, quelli bassi sono giusti e quelli alti non ti corrispondono. Beh, dai, riprendo un attimino dalla PM che mi sta passando la QTH di Rockefeller, dai. Così che guarda te lo strumento. Sono regolari, i stazionali sono regolari. Così che deve essere che stasera il problema è il vostro. Perché state prendendo un po' di QRM e un po' di mondezza, evidentemente. No, allora, qua stai arrivando bene, tranquillo, io sono uno di QRM, cioè, no, beh, con l'apparecchio comunque mettete le macchine, altrimenti domani pomeriggio lo controlliamo, sei proprio fuori, lo, se passi qua, lo facciamo insieme di fronte, proprio di fronte, come si fa per le fettine che te le tagliamo di fronte, vieni, lo facciamo. E famolo, e annavolo. È possibile che tirando qualche molla per alzare un po' la cosa abbia, ma non credo, non credo che sia quello. Forse che mi devo rispostare, cosa sto dicendo? Tirando qualche molla, siccome ho tirato qualche molla per alzargli un po' la potenza, magari sia uscito fuori frequenza. No, due volte gli ho toccato meno la cosa, basta sfiorare, capito? Basta sforarlo. E qui anche pompa un po' come lo senti. Ah, io lo sento bene, vabbè, sono col terminello poi l'ascolto, non con le 80. Lo sai che io uso delle antenne, in trasmissione c'ho la 50 e in gestione c'ho la direttiva. Però siccome sono sicuro quello che sto dicendo, quando vieni qua te lo dimostro con lo strumento, te lo metto, lo colleghiamo all'uscita del PL, gli diamo, lo alimentiamo, gli diamo, lo mando in trasmissione e ti faccio vedere che è spostato di lungo. Appa di Rogero, Gama Gama e Gama Roger, io che me ne esco, dai, fate da bravi, non vi ticciate, non vi picchiate, non vi toccate, e questo è per Pomponio, e ci sentiamo alle prossime, dai, riprendo al limite dall'ABM, cambio. Sì, tranquillo, non devo pistare come sono io. Al limite di 10 con letto stanotte. Si stanno creando un casino nero, si tranci che vai benzino, a poco. Pompo, quanto è che ce l'hai? Io 2, 2 e mezzo forse, quanto ce l'hai in QRM? Non ce l'ho altro, ce l'ho. 9, poi è strano, Antonio oggi sta facendo basso. L'altro giorno sentivo benissimo quando c'era Giuseppe. Che Giuseppe ha detto adesso non è colpito, ma lo sentivo benissimo, ma non lo so, oggi è una cosa strana. C'è un sacco di QRM, un problema di ricezione, sia con una terra sia con l'altra. È strano però, non ce n'è molta, io ne ho 2 e mezzo. Adesso non so se Claudio in ascolto, provo a chiedere a Claudio quanto c'ho di QRM, vabbè, perché voi siete nella stessa zona, perché questi cazzo di tralicci sono le puttane, può anche essere. Allora uno vicino a te lo volessi chiedere a Claudio, magari Claudio anche lui oggi magari a QRM, boh. Non è colpa mia, no? C'ho questa capo di tralicci, boh, voi sono per dire che cazzo di travagli estranei adesso qua. Non lo so, oggi Antonio è veramente a basso, l'ascolto. Tanti giorni io sentivo chiaro addirittura, quindi mi ricordo di tu. Oggi è strano, è molto più basso di altri giorni. No, comunque è sempre uguale il segnale qua, senza problemi. Non ce ne sono, non c'è sta problemi qua. Ascolta, Claudio, ci sei, ascolta, sto caso sei qua. No, magari sta guardando la TV. Senti V2, dai, qua ce l'ho di QRM. Tutte, io vado 9. Santiago 2, sempre, normalissimo QRM che si viene a creare, ma lui c'ha quel capo di tradizione. Se no, se non c'è QRM mi sente per forza bene, senza nessun problema. Beh, ecco lui, ci sono altri 5 minuti, sei grotto a prendere la macchina. Quindi lo salutiamo, mentre io me ne vado anche sul divano. Domani mattina alle 5 e mezzo mi devo alzare e devo fare ancora due cose al PC per controllarmi due cose, dai. Asco, c'è la voce anche bassa, perché sono rauco in questi giorni. Un po' come ti sembra che stia uscendo in confronto al solito? Ti sento bene, la verità, chiaro, perfetto. E in confronto a, vabbè, lo stesso apparecchio più o meno, in confronto a prima come ti sembra? Molto simile, di più, di meno? Molto più chiara, poco facevi la qualità strana del microfono solo originale del team quando ti sei detto io, quindi adesso invece quella tonalità non c'è più, del microfono normale. No, fai il paragone in genere, come con 440 l'MC60, differenza c'è con questo? Ti sembra molto simile o migliore, peggiore? Tu come lo senti? Simile no. Quantificato in pratica dovresti essere, se la metà là. Quindi con l'altro lo senti più amplificato? Sì. Quindi col 4,40 lo spinge di più? Esatto, spinge di più. Questa cosa più o meno quando attacca Claudio da una parete all'altro, che lo stesso microfono, per dire uno lo può fare di più, in una parete uno può fare leggermente di meno. C'è una differenza comunque, dalla, non so se è questione di caratura, boh, dentro, comunque è assinotta. Sì, no, va bene, è cosa abbastanza a norma. A me era importante che stia uscendo bene, no, guardate, guarda bene, no, perché proviamo adesso un po' di giorni prima di darlo via, proviamo un po' di giorni, devo essere sicuro nel lavoro, devo essere sicuro, se no si va male. Va bene, siamo rimasti io, tu, Mombolo e Gianni, avanti Gianni. Tu, anche Gianni si dorme i due. Comunque già è stato un bel lavoro, se per quella, stai facendo benissimo, quindi hai fatto un buon lavoro. Oh sì, questo 4,40 è veramente, infatti c'ho veramente l'intenzione di tenermi questo e fare fuori il 4,40, sono che sono tutti e due perfetti, e quindi alla fine io sono affezionato al 4,40, la verità si dica, chissà perché, con il viaggio di più, non lo so, però sono tutti e due bellini, poi vediamo, decideremo, le notti, perché soltanto uso questo per un po', le notti mi porteranno consiglio. Ah beh, quello sì, comunque mi piacciono entrambi, uno e l'altro, uno c'è una trattore e l'altro no, per dire. A me piace essere 80, è molto più semplice da usare, non ha problemi, puoi fare ciò che vuoi, eccetera, eccetera. Poi 440 è un'altra cosa, c'è la trattea, c'è la cosa automatico, e c'è un sacco di altre cazzate che perlomeno, però qua, diciamo, quello che ho io, cioè 50 megahertz, eccetera, eccetera. E quindi va bene questo, anzi l'unica cosa che mi piglierò sarà la PT101 per modulare, perché esce molto meglio di questo, è molto molto diverso la modulazione, puoi aggiungere, metterci qualsiasi microfono, c'è uno spinato per 4 eccetera eccetera, esce quanto questo qua con poca spesa, quello 604, questo è massimo 50, perché io non lo tocco. Quindi questo che dà va bene così, tanto inutile aumentarlo quando poi gli crea problemi avvicinato. Io infatti qui non ho tirato molto questo, la verità, poi ho notato una cosa, è il terzo quarto che mi entra in mano, e la maggior parte sono tutti starati di smitter, quindi magari se comunque sta uscendo con 120 watt e questo sta uscendo con 60 watt, perché questa guardano anche le caratteristiche e alcune cose sul, mi stavo guardando bene lo schema. L'AM non riesce a dargli più di tanto di quello che noi diciamo molte volte, sta dando tutto, tutte puttanate, perché l'ho visto, non è possibile, è come 2 più 2 qua, non può fare 6, e poi infatti avevo quell'impressione che questo sembrava che dava chissà cosa, poi ho attaccato anche il mio, alla fine ho messo e ho visto, gli smicker tutti generosi molto, ma secondo me glielo fanno dalla casa, capito, dalla casa ti fa, vogliono far godere, no? Ti vogliono far godere, io tutti quelli che mi sono entrato a mano sono tutti così, ma anche l'OT50 che non è mai stato toccato, che non ha toccato nessuno, è molto più generoso di Bat, e secondo me sono tutti così, me lo fanno dalla casa per farti godere, no? Poi andano, che ne so, se ne fanno 70 te ne fanno segnare 100, 110, ti fanno godere, è fatto apposta. Sì, poco da godere c'è, io non sempre so per 50 watt, da quando c'era anzi posso dire una cosa, penso di essere l'unica persona che ha usato il DVD MK3 con Kimbut, che vuole il 80 watt e mezzo 3 e dava 700 tondi tondi, ma una radio che non si notava nemmeno, c'avevo il Kimbut attaccato, la verità, cioè che fosse attaccato con Kimbut, quindi con un bel lineare. Quindi è un apparecchio veramente da belle soddisfazioni, se volete 50, se volete a 5 non cambia niente, va bene, se volete a 100 c'è quanto sappiamo, quindi non come niente esatto, però in FM è tutta un'altra cosa, vedi, la FM della AM è tutta un'altra cosa, esce molto molto bene, è per quello che mi sono scelto, il fenomeno di 80, perché c'ho già la bellezza di più di 15 anni, e figurati. Sì, no, vabbè, ascolta, ma non è come il 440 con quel 140 che da picchi positivi, adesso metti a 10 arriva a 70-80 di picchi positivi, il 680 e il 440 è più controllato, no? Sì, no, quel picchi mica così alto non è esame, no, se sono 10 watt massimo verrà per dire 40, non di più, Perché meno qua per esempio sono 20 e ne stanno 30-35 di picco, ma invece quando il 440 metti a 10 è molto impressionante, riesci a farlo andare, infatti non infatti così, infatti penso che c'era qualcuno che c'era. Sì, quello per fare quel discorso lì dei watt, dei picchi, basta che metti a un watt e mezzo, attacco un linearone e quando parli per dire passi da Santiago 7 a 9,20. Come c'erano tutti quanti che abbiamo visto, c'erano così l'apparecchio, metto di watt a zero e escono più forti le radio e c'erano i suoni più piccoli in modulazione, sto lì, però se li metti in watt, c'erano due radio, anche quando per un attore i watt sono quelli, non di più, hai capito? Perché te li stoppa appena. E a buon prezzo. Ma vediamo, adesso faccio altri due passaggi e poi me vado, spengo tutto qua. Avanti Bombo. Una volta che Bombo si rompe due. Io quando ho fatto l'allineamento del baracchino a Giuseppe Leoncino in macchina con il Bicenzo e con il 150, lo dico io. Sono sceso a 50 watt del lineare, cioè non 50, sono sceso a 50 watt del lineare e pilota l'operatore con quasi 2 watt. Ma c'era la radio con quel microfono che c'è in macchina lui, che era una cosa impressionante, usciva veramente forte. Poi la gente tocca quell'altro, ha prendato tutto. Solo sai che non avevo messo l'apparecchio in macchina, avevo diminuito un po' il watt della Fayette, ora perfetto, ultimo del lino, perfettissimo, non puoi gli dai fatto dentro. Sto dicendo, con il 50, se tu a parte di gli hai 10 watt l'uscita, c'è stato con il 50, allora devi proprio diminuire il watt, diminuisci il watt. Io a 50-60 massimo del lineare, tutti a 4,5-2, quello che è, ma c'è la radio che è micidiale, con il microfono amplificato. Se non si mette per dire un Toxel, un M300 è una cosa da non credere, per dire una, l'allineamento giusto è quello. Poi c'è la gente che dice, sta scendo così, sta scendo con l'altro, se ne realtà tutte le cose, sempre tocca il lineare. Ma non quello mi ha fatto fare niente, non me lo ricordo, sì, ma come ho fatto cose, per esempio, anche per l'accoppiamento del, se tu cambi, quando facevo ancora lo faccio, e quando dopo faccio impianti audio, molte volte, quando li portavo ho fatto finali a livello europeo, quindi bene o male, qualcosa, oltre che, e quando facevi alcune macchine, come vedevo alcune macchine, ma dico, ma come vanno mai? Sentivo, sedevano dentro, scusi, suonavano in una certa maniera, eccetera, eccetera. E molte vedevano proprio con gli stessi componenti, parate più o meno, vedevano, sentivano suonare, e dice, ma almeno suona così, con questo, allora qualcuno scoppiazzavano, io me lo ricordo, certo lo scoppiazzavano, poi magari scendevano anche la meglio, l'ottaravo, gli facevano la taratura, no? L'ottaravo la cosa più importante, e non suonava mai, anche la chiappa non suonava mai, allora, i trucchi non gli dicevo, perché secondo l'amplificatore audio, secondo come lo dovevi far lavorare, soprattutto sul pre, secondo dove doveva lavorare, l'assistenza cambiava e lavorava in maniera diversa, quindi il suono cambiava. E questo è quello che fa subito qualcuno che fa su questi 48 credo, con la tua del modulatore, aprono, fanno. E qualcuno elabora da uno dall'altro, va meglio dell'altro, qualcuno va meglio, qualcuno va peggio, è il semplice motivo perché qualcuno i trucchetti non ti dirà mai, capito? Perché mi ricordo che anche quando il periodo che li facevo gli impianti andavano bene, ma alcuni andavano meglio, tanto la gente non lo sapeva, dice ma è lo stesso coso, tutto qua, vabbè, ma il trucco nessuno te lo dirà mai, capito? Perché se lo tiene per sé, quando ha trovato la modifica giusta, che magari ci ha lavorato settimane sopra, ascoltando, riascoltando, è la stessa cosa credo sia su questi quanto che modificati. Beh, quello sì, è logica la cosa. Io ho visto schede modificate, cioè la scheda originale è modificata, tutti i componenti originali messi altri, capito? Radio, una radio molto molto diversa, ce l'ha così Salverio, io ho visto la scheda originale era una cosa, quando poi è stata rimandata mancavano componenti, è stato tolto quei componenti che invece dei condensatori, e fatte altre modifiche, capito? Per poter uscire molto molto meglio. Ognuno si fa la modifica sua, cioè una volta che c'è la scheda, addirittura la scheda originale c'è, che aveva la scheda la mia con l'OGDP, l'OGDP è stato staccato e ce non c'era bisogno, e quello che ha fatto comprare l'OGDP per dire la scheda, che ha attaccato con l'OGDP e l'ha messo l'OGDP nel baracchino, magari con l'OGDP l'ha passato a un'altra persona per dire, ognuno c'ha i cosi suoi, capito? Sì, non ti dico i trucchi, è normale, ma anche giusto, ci devi arrivare da solo, oppure scoppiattare e poi sperimentare. Purtroppo, io vorrei, sarà che sono esperto in un altro ramo, è quello che me ho sempre fatto tanti anni, quando andavo a giudicare macchine, no? Perché facevo pure anche qualche impianto domestico, ci chiamavano come giudice d'ascolto, no? Quindi come... Tanto sentivi delle cose, conoscendo l'apparecchio, adesso mi metto davanti in qualche sale d'ascolto, con quelle case, ma quelle magari anche impianti costosi da 15.000 euro, solo le case, per quanti che conoscevi, quindi che avevi ascoltato, fatto. Tanto sentivi suonare, e il suono era diverso, dice, tanto pure questo amplificatore con questa accoppiata di casa, allora inizia a vedere, ma che cavi stai usando? Che metti quello, metti l'altro, tanto il suono era diverso. Alla fine di scusa, io non io voglio fare il saputello, però qui secondo me come avete toccato. E alla fine la mezza ammissione è che ne so, il pre è stato modificato. E tu lo guardi uguale, furto, magari hanno cambiato qualche fesseria. Io ho fatto arrivare a suo tempo un amplificatore a valvole. Che ho visto montato in parecchi impianti, certo, ma non ha mai suonato quello lì, non ha mai suonato, e infatti io tutti quelli che entravo giudicavo, dicevo ma guarda, io non per dirti, ma questo pre non sta girando, questo pre, poi qualcuno infatti era tentato a dirmelo e mi ha detto, quando sentivo la macchina mia, mi diceva scusa ma tu ce l'hai il pre, è uguale al mio, e mi dici che non va bene. E io alla fine ho capito, cioè, io come avevo fatto la prima cosa, gli avevo sostituito delle valvole, ho messo due valvole nostre del 72 particolari, e poi avevo modificato gli operazionali, avevo eliminato tutti quei trimmer che aveva sostituiti con qualcosa di più serio, valvole nuove, operazionali modificati, tanto quello di cui era diventato una bestia, suonava in una maniera incredibile in confronto questo amplificatore, ma a guardarlo tu aprivi anche, non ti rendevi conto di niente, se non la marca delle valvole, però la macchina era un'altra, suonava in maniera diversa, capito? Quindi, però io non è che sono mai andato a raccontare in giro, ho modificato, ho fatto, alla fine sì, alla fine quando facevano i paragoni che io alla fine dicevo, quanto cambia questo pezzo non serve a niente, qualcuno mi dice, ma tu, io praticamente lo mettevano, l'avevano messo un dirigente perché lo vedeva in macchina mia, alla fine ho detto sì, ma il mio non è tutto modificato. È tutto modificato, solo per quello suona meglio, comprato una macchina migliore, e quella è la stessa cosa di questi apparecchi ci elaborano dentro qualcuno. Sì, ma così come tutte le cose, quando devi fare modifiche per avere un buon audio, deve fare giocare sulla modifica, c'è anche un'altra cosa da fare, secondo me. E vabbè. Se non uscirebbe purtroppo qualcosa che bisogna farla, come si deve, se no è inutile farla. Che si esce o male oppure si esce bene, il discorso è quello. Non mi appare col cambio comunque, bisogna fare sempre la stessa lettura diversa uno all'altro, cioè. Sia la trasmissione che ricezione. Poi se uno ci vuole mettere l'eco, ci mette l'eco, quello che vuole, di fare le regolazioni, l'effetto di. C'è quello che vuole l'effetto di corte, lo dice che vuole l'effetto del cose, mamma mia, anche con la fissazione che c'è. Insomma, tra 5-6 anni con l'effetto di incontro sparisce, ci mettevano un eco ripetitivo tipo pentacartello, tipo come parla il Papa, che si sente la voce rimbombante, effetto chiesa, più che altro. Ma infatti non. Ma come tu lo concepisco sono proprio roba da camionarie, ma anche quelli secondo me, perché vai sul 45 intanto li senti, giocano, fanno, ma è anche bello, provo a usare in camion così, usare in un questo qua, va bene lo stesso, quando stai giocando le punti prova il finale, ma però se fa una discussione come stiamo facendo noi, sono fastidiosissimi questi giocattolini, perché poi alla fine sono dei giocattoli, vanno bene in camion, ti diverti, sia perché ti spingono un pochettino, quindi segnale basso e ti sentono, poi anche perché ti diverti, giochi, fai e via, però se devi fare un questo normale così, sono fastidiosi, hanno tolto anche fastidioso quando sei troppo amplificato, immaginate un po'. Mi lascia per l'eccezione quegli apparecchi non servono a niente in casa. In camion sì, in macchina la stessa cosa, ma se lo metti in casa, e come va bene, se 80 che c'hai, come ti posso dire, che vedi a plurale attaccato alla linea elettrica, e già ne parli domani già ricezione. Ah, tu prendono colpi, dai. 10:30, che ha fatto da 10 minuti ci oggi smettevo, vabbè, abbiamo sforato un po', ok, beh, un po', ti saluto, dai. Fa una chiamata, se no fatela a letto che è tardi, dai. E buonanotte anche a tutti gli ascoltatori da parte mia. Buonanotte, a domani. Tanto durante il muscio, hai presentato la baracchina del morto in macchina. No, se domani appena sentiamo, vediamo il coso scritto all'ingresso di Sassari, morto per tutto Badonzo. E ci sentiamo domani, dai, fabbriciamo. Buonanotte, dai, Bombo lo stesso se deve essere addormentato, Gianni lo stesso, si sveglierà alle 3 con il microfono in mano, Gianni, Boh, io mi sveglio con il cuscino in mano, con cosa, il microfono, sarà. Buonanotte, dai. Ciao, buonanotte. Attenzione, Fabrizio. Attenzione, canale 10. Antonio. Non è rimasto nessuno, tutti i guerretti hanno fatto. Ma non fare, ce la fa. Come già un pochettino rilassato sopra il divano. Sopra il divano letto. E quanto fare, boh. Scusa un attimo che sto finendo di chiudere l'apparato. Ma. Ok, vabbè dai, io saluto a tutti, ce la risentiamo. Ciao Antonio, 144, ciao. Ciao, sempre che ti mano, sempre.